Io ci cambio. Oh, c'è nessuno! Mi sto godendo la pensione, no? vogliono giocare, non ne va più niente, è tutto qua. Per forza, così devi fare, e non c'hai travagliati, per forza. Adesso c'è un vicino col CB, ho visto che c'è un'antenna vicino alla tua. È positivo, c'è un'antenna, sì, c'è piazzato l'antenna. Però non lo so se sta entrando, non lo so neanche, guarda, perché io non ci sto mai entrando. E infatti, dovresti far sentire un po' di più. E niente, no, io non so chi sia, non l'ho mai sentito. Sì, l'ha ripiazzato, forse ce l'aveva anni fa, quando ho capito, adesso ho voluto ripiazzarlo. Dopo anni è appiazzato l'antenna, ma c'è tutta l'attrezzatura per gli apparati adeguati e tutto quanto c'ha, perché ce l'aveva già, sicuramente ce l'aveva già, dai. Ah, ma tu lo conosci in persona? Ah, ma sì, lo conosco perché è vicino di me. Ma lui non si chiama Stefano, no? No, si chiama, mi pare Giuseppe. Ah, ho capito. Perché lì prima ci abitava uno che conosco, un musico di Sassari. Beh, aveva venito, questa tortura. No, quello che dice lui si chiama Stefano. Benito già, e c'era il baracchino Benito, e abita qui a Ottavo. Sì, ma Benito lo conosco. No, non è Benito. Uno Stefano, non lo so, non l'ho mai sentito. Stefano c'era, ma qualche volta entrava Stefano al baracchino, ma Stefano è il marito di Rita. Ma non penso che stai dicendo a lui, tu. No, quello lo conosco, non quello Stefano lì, no, un altro. Vabbè, attenzione, Claudio, quello di quelle lande lì che fa chiamare Spalviero, ci sei? Ciao Eugenio, non c'è, già entra più tardi. Ehi, ciao Carlo, e allora buonasera. Buonasera in compagnia di Antonio, io a Placamora, anzi a Balai, a Porto Torres, e in compagnia del grandissimo Gigi Vulcano. Cambio, a te Gigi. Ciao Carlo, buonasera prima di tutto, dai. C'è anche Antonio, che l'ho trascurato, Antonio che mi sa che era in parte mobile lì, quello del Porto Torres. Avanti Carlo, che c'ho pochi minuti, perché qua fra un po' apparecchiano le bancarelle, non posso più parlare, capito? Alle 5 devo smettere, purtroppo. Niente, non posso continuare dopo le 5, capito? Vai per te, Carlo. Eia, va bene. Ben sentito dopo tanto, mi fa piacere. Niente, Antonio di Sassari, che è in giro in macchina. Positivo, Antonio Popolo. Allora, scusa Carlo, io vi sento, però voi a volte entrate dopo le 5 e io non posso intervenire, capito? Ecco perché non entro. Poi più tardi, quando chiude il come si chiama che c'ho a fianco, voi non ci siete più. Tutto qua, però vi sento, però non posso entrare perché disturbo, capito? Ma cosa? Il supermercato? A Pan Rogero. Ma io lo di là, rompere le scatole. No, ma lo so che perché l'antenna ce l'ho più bassa adesso, prima non stava dando fastidio, poi che l'ho abbassata per ripararla, non l'ho messa più su e capito. E no, l'interno per tutto, non va bene, dai, allora non c'entro mai per quel motivo lì. Fatemi, saranno già le 5. E approfitto anche a salutarvi. Dai, riprendete voi, io vi saluto, sono già alle 5. Ehi, va bene, dai, ce la risentiamo ad altri orari, allora, dopo le 8. Qualche volta già ci tratteniamo anche noi dopo le 8, sul 10, sempre qua. Va benissimo, a te il microfono, Eugenio. Ehi, ciao Carlo, va, ciao Gigi, ci sentiamo. Niente, là. Carlo, ma sei in macchina? Come, Eugenio? Sei a casa o sei in macchina? Sì, a casa. Prima ero con Claudio in radio e stavamo parlando un po' di antenne e cose così, però mi ha detto che aveva da fare qualcosina, che già si sarebbe fatto sentire su questo canale più tardi. Ehi, va bene. Riprendi Antonio. Oh, Antonio lì si aspetta la macchina. Evidentemente in zona negativa, Eugì, e quindi a volte ci sono quelle zone dove non riceve l'antenna e ne trasmette bene, molte volte è così. Ma Antonio, qua a Sassari, quando in macchina lo sento un po' dappertutto. Professore, se è impossibile non mi senta. Ma dov'è Antonio? Io non lo sto sentendo adesso, dov'è? In che tratto è? Era Varai, fino a 5 minuti fa era Varai. Ah, capo, allora dalle parti tue, Eugì. Caro, ma tu ce l'hai anche in macchina? Sì, ce ne ho anche uno piccolino, a volte lo piatto in macchina. Ah, ok, ho capito. Ti facciamo accompagnamento per vai al lavoro. Molte volte lo uso quando esco da lavoro, ho capito. Fino ad arrivare a Sassari a volte c'è qualcuno, quando esco un po' presto, intorno alle 7:30, c'è ancora qualcuno e mi accompagnano sino a Sassari e poi riprendo da casa quando è possibile. Non ho capito. Senti, ma quella lì è possibile piazzare? Ah vabbè, già me l'hai detto, sì, è vero, dove si chiede l'ordine a quello di su, ho capito. Sì. Però sto valutando anche un'altra possibilità, se mi dà una mano Claudio, le prossime settimane metto di nuovo l'antennone che avevo. E quindi si fanno salire sul tetto? No, lo metto sul mio terrazzino, capito? Poi quella lì talmente lunga che sale oltre il tetto. Ah, nel terrazzo, buono. E non dai fastidio a qualcuno, non dai fastidio al terrazzo di su. No, perché sopra di me c'è solo una mansarda, c'è il tetto basso e basta. Ah, allora è buono, allora va bene. Va benissimo, io allora aspettati a piazzarla. La prossima settimana ho l'altra ancora, come fa una bella giornata senza vento, dovrei riuscire a piazzarla e così guadagno un po', almeno due decibel. Lì sabato ha messo buono. Sabato ha messo una bella giornata, magari stai lavorando. No, perché già c'ho anche un po' di ferie a marzo. E quindi dal 7 al 14, se fa tempo buono, sono sicuro che in quella data lì riuscirò a metterla. Già arrivi con questa, che insomma non è il massimo dell'antenna, però se ci metti quella qua arrivi benissimo. Io sono sicuro che con quella ti arrivo almeno Santiago 9 di là, capito? E adesso vediamo, sono proprio curioso di vederla piazzata. Sì, sicuramente avrai un segnalone qua, sicuramente. Va bene, Eugì, io ti lascio perché ho delle cosettine da fare, sono rientrato poco fa e ho un po' di spesa da mettermi a posto ancora tutto sul tavolo. Ci sentiamo più tardi, già rimango in ascolto ma sono nell'altra stanza. Ce la risentiamo dopo, grazie del QSO, Eugì, a più tardi. Vai tranquillo, fai quello che devi fare. Ci sentiamo più tardi, ciao. Aio, spegnete tutto e buttateci tutto, aio, forza! Aio dai, buttateci tutti gli apparati, forza, tutti a nanna, aio! Lampedisi tutto! Ciao genio! Ciao genio, c'è un extracomunitario che ti ha sovramodulato. Tipo roba ucraina, roba del genere. Si sta allargando la provocazione. Roba di bollettino, roba di bollettino, sempre amatessi in mimora. Sarà roba meteo, cosa ne gioco? Aspetta un attimo, già, arrivo subito. Va, finito il bollettino, Eia, eccomi, ciao genio. Ciao, e allora, cosa mi dici? Guarda, un'altra domanda. Sarà se non stai più facendo? Un'altra domanda. Niente, neanche più serate stai facendo. Oh, guarda, lascia perdere, manca di dai. Adesso sono tutti DJ, si compareggiano il giocattolo. da Veronix si mettono a giocare, baccali dai. Ascolta, piuttosto, com'è il mio segnale? Schiccia? Schiccio. Ok, qua è Radio Lima Pappa, la Sassa di stazione ferroviaria, cambio. Sì, a 7 e poi come Mullo sei quasi a 8. Bella. E anche tu sei tra il 7 e l'8, dai. Cosa c'hai? KK? KK. Bene meda. Oh, yeah. Sta ritornando di moda il K. Allora io ce l'ho tanto. Io ce l'ho qualche anno. Ah, va bene così. E allora questa fricatura come te, che colore ce l'hai? Quella bianca, rossa e blu o quella grigia e nera? No, i classici colori, bianca, rossa e blu, sì, classici colori HRC. Com'è quella di Dario, quel ragazzo che conosco, vigile del fuoco, ce l'ha uguale, dai. Adesso non so se lui l'ha presa, se ha preso il modello base, perché poi mi stava dicendo che chiaramente se inizia a mettere l'optional il conto aumenta e boh, no, mi ha detto che forse ha preso un paio di optional, ma si è limitato veramente alle cose base, dai. No, ma a me mi mancano solo i faretti, poi ho tutto, roll bar, poi lo so, ho l'asera ribassata, poi ho le sacche molto importanti, ho il bavone dietro e le due sacche sui fianchi, quello originale Honda, e poi non c'è da farle altro. Sì, ma li hai presi come option a quelli lì, i bauletti laterali e quello posteriore? No, quelli mi sono stati regalati, mi sono la moto. Ah, ma nuova di pacca o l'hai presa usata? E diciamo che è semi-nuova, di un dottore che se l'ha versata perché faceva da casa all'ospedale e si è preso uno scooterone. Aveva quasi 19.000 chilometri, 18.000 e qualcosa. Insomma, finito un rodaggio, dai. Oh, yeah. Sì, molte di questi la comprano per fare quel percorso lì e poi, cioè, nel senso, la tratta di Bogomi. Sì, no, lui ha detto che io dall'ospedale a casa, e niente. Quindi si è preso HDV, una cosa del genere. Con scooterone con la forcella della moto. Ho capito di cosa stai parlando. C'è là un tipo che conosco, blu scuro. Adesso non so se è automatico o alle marce, blu. No, è automatico, è uno scooterone mio, uno scooterone che lo volevo far assomigliare una moto. Già hai visto, tutto squadrettato, ho capito, dai. Sì, già è quello che c'ha Giuseppe, un tipo che conosco. C'aveva un Team Max, se l'ha cambiato diversi mesi fa, dai. Ha preso una cosa del genere. L'ho convinto che deve essere marce, vabbè, a me non mi giova nulla, tanto. Le motociclette sono altre, dai. Sì, e il caposaccone, sempre ce l'hai venduto. No, l'ho a malincuore, l'ho dovuto dare, l'ho dato a Franco Campagna, della Camplet via Roma, già lo conosci. Ah, Franco, io pure lo conosco. Lo conosco benissimo, Franco. Ah, ce l'ha lui. Ma già da qualche anno. Adesso siamo da un po' che non ci sentiamo, non so che fine abbia fatto la moto, perché l'aveva risistemata, aveva buscato un altro serbatoio perché il suo era praticamente, era da buttare, era marcio, ha provato a recuperarlo ma non ce l'ha verso, quindi gli ha buscato un serbatoio e poi vabbè c'erano, più che altro era da sistemare a livello estetico, sai, rimanendo ferma, ha un po' di ossido, un po' di ruggine superficiale, un po' qua e là, però ho visto che ha fatto un bel lavoro. Adesso ti ripeto, sono da un po' di tempo che non ci vediamo, quindi non ho idea se ce l'abbia ancora o se l'abbia venduta, boh. Ah, ho capito, tu l'hai venduta a lui e lui, vabbè, andava. Ma adesso non le hai, no? Non le hai molto, no? Se fosse stato per me e per le condizioni le condizioni a cui aspiro non l'avrei mica venduta. Purtroppo sono cambiate tutta una serie di cose. Gioco a forza, bisogna adeguarsi. In questo momento non me lo posso permettere, perché ci sono altre cose in ballo più importanti e quindi per adesso è tutto. Quindi niente macchina, niente motocicletta, una mountain bike, la mountain bike verde giusto per rimanere in tema, e poi nient'altro. Però se le cose dovessero migliorare più avanti, magari un pensierino ce lo rifaccio, però veramente qualcosa di veramente piccolo, niente di esagerato. Ah, ho capito. Ma poi non mi ritrovata la mountain bike, te ne hanno fregato. Quella è già uscita fuori dall'Italia, secondo me. Non è roba che è più qua, quella lì è già partita da qualche altra parte. Ho provato a fare la segnalazione anche da altre parti, ma non ho niente da fare. Tutte le volte che hanno recuperato roba rubata ho chiamato, ma della mia nessuna traccia. Hanno trovato roba elettrica, bici da corsa, altre cose, però la mia non ho... La mia è sparita del tutto. Vabbè, una bicicletta, vaffanculo, vabbè, dai, bastardi. Va bene. Che mi sta dicendo? Che apparato stai usando? Non ti ho capito. Che apparato stai usando? Il Jopix 2000, che sarebbe la dovrebbe essere la fotocopia del Super Galaxy, boh, come ti si chiama, sempre non stazione fissa, sempre a barra mobile, grigio con display Smithers sulla sinistra e tante manopoline, USB, LSB, AM, FM e tutte cose. Ma quello che c'era tu sta sempre funzionando, sì? No, lo devo rimontare, perché si è fulminata la lampadina dello Smithers e poi una lampadina del display. Le lampadine le ho cambiate, come l'ho rimontato, praticamente il display era completamente resettato, non appariva nessun numero. Io mi sono limitato solamente a dissaldare la lampadina, infatti non ho fatto nessuna altra operazione e mi è sparito il display. Non ho idea di cosa sia, adesso piano piano, quando ci avrò pazienza, mi metto a controllarlo come si deve. No, ho capito. Invece il tuo portatile sta sempre andando. Sta sempre andando e c'è il mio compare, lo usiamo io nel campo e lui nel suo. Lui modula con quello, col portatile. E va bene. Alla grande. Sì, roba vintage, però dai. Il suo vabbè già lo fa ancora. Ho visto che anche su internet ce n'è qualcuno in vendita e continua a rimanere con un prezzo, insomma, con un prezzo buono, dai. Cioè, poi vabbè, ci sono i maniaci che lo vendono a cifre assurde, però bene o male quello lì lo si trova tra gli 80 e i 100, dai. Nonostante sia vecchio funziona bene, dai. Sì, funziona bene, è alimentato a 12 direttamente dal campo e funziona bene. Ma giustamente quando lo usa lo collega alla tela esterna, che se no non si tende a essere abbassi. No, usa la sua antenna in gomma. Cosa ti posso dire? Distanza 500 metri riesco a sentirlo bene. Ok. Perché vabbè, se no dentro la gabbia di ferro col gommino, cioè non va da nessuna parte. Pensavo che lo collegassi all'antenna esterna una volta dentro il camper. No, lui non vuole bucare, non vuole Solo ho visto che c'è un'antenna, se l'ha piazzata un amico di Cagliari, un'antenna nuova che si attacca al vetro senza bucarlo. C'ha l'adesivo da una parte e l'adesivo dall'altra. Quella interna c'ha una specie di centralina, non so se l'hai mai vista. No, negativo. Sapevo che c'era roba per l'autoradio, ma vabbè, quella è solo per la ricezione, non so se è stata fatta qualcosa anche per la trasmissione. Non ho idea, guarda. Sì, c'è l'antenna dell'apparato, del baracchino, antenna 27, della 27. C'è da attaccarla la incolli al vetro col biadesivo tuo, l'attacchi dall'altra parte, all'internamento c'è una centralina dove attacchi il filo PL e lo aggancia al baracchino e funziona bene. Ho capito. Allora, è partito questo QRM elettrico casa Santiago 5, a Giumai non riesco a sentirti, bobo. Sì, addirittura così alto. A volte forse c'è il vento, sta entrando un sacco di vento. No, ma sembra più che altro QRM elettrico, roba elettrica, capito? Cioè, sembra che qualcuno abbia attaccato qualcosa, adesso non so se è qua vicino, oltre a quelle di casa, vabbè, ma quelle di casa non creano disturbo, perché ho già provato. Magari qualche pompa di calore qua vicino o qualche altro tessile. Ah, è certo, è un apparato, certo. Ehi, proprio di colpo. Cazzo, mentre stai parlando è partito, quasi non riesco più a sentirti. Aspetta, gli hanno suonato, un attimino. Andave. Gloria. Solo il QRM ci voleva, bobo. Quelli sono gli Yankee, mi splatterando su alcuni canali, mi nudanizzai. Oh yeah, anche qua rompono le scatole. Yankee go home. Ci sono gli Yankee che stanno splatterando, Eugenio. Maledetti americani, andate a splatterare a Trump. Noi. Ce n'è uno, cazzo, arriva a bomba sul 6 e poi ogni tanto sull'11 qualcuno fa capolino, dai. Anche a me non si basta, stanno da arrivare fuori. Guarda, ti riesco a sentirti a malapena, addirittura esce QRM a 6, bubu, ma dimmi tu, anche qui rompono le scatole, ragazzi. Maledetti. Ma sei a riposo per la questione del vento o hai finito di lavorare? No, ho finito di lavorare stamattina, circa 11 e mezzo, mezzogiorno. Ah, ok. Dai. Adesso cala e speriamo che la situazione si calmi, dai. Ma vabbè, niente a confronto con la roba dell'altro giorno o quelle di qualche settimana fa, dai. Già, non ti ho sentito, che sono si scemi. Vabbè, che vedi c'è QRM a stelle strisce che non prendi i cattoli. Ho detto che il vento sta calando e non era forte come quello dei giorni scorsi o quello di qualche settimana fa, dai. No, leggermente più basso, ma stanotte dice che tira un'altra bella fino al corpo stanotte. Ho capito. Vabbè, dai, le pulsanti non funzioneranno, perché ne ha già fatto troppo, dai. Non si è sentito nessuno qua? No, ancora è presto, entrano verso le 6. Ho capito. Che ore sono, Sciabidì? 5:30, e chi sto è? Oi. Americani sul 6, sull'11 e sul 15. Invasione totale. Cos'è già? Ho detto, ci sono gli americani sul 6, sull'11 e sul 15. Questi ragazzi fatti sopra attendi. Noi. C'hanno la stufetta, altre stufetta. C'hanno la caldaia attaccata, ragazzi. Voi, OG, se mi ascolti, dai, io io mi allontano un po' dalla radio, perché veramente faccio difficoltà a sentirti, e poi il QRM è altissimo. Boh, magari la tenga accesa e vediamo se la cosa migliora, dai. Andame. Buonasera, c'è qualcuno? Chi è che bussa? Il più forse di Maccianculetta. Ella. Ciao Massi. Ciao professore, come stai? Tutto a posto. Dai, un'altra domanda. Non è un'altra di riserva. Come se parli così? Vabbè, quello è fuori discussione. Almeno una certezza ce l'abbiamo, dai. A me mi fa rimanere la pedivella. Ah, vero, sì. A me mi fa rimanere la vespetta. Ingranaggi, so cos'è il sozzo, è dato in grippo. A me lui com'è? Sono entrato poco fa, perché ho fatto smontando, poi sono andato alla meccanica, mi dovevo cambiare due supporti degli ammortizzatori. Cazzo, 110 euro. E vabbè, dai, non fa niente. Stiamo riniziando a ripopolare un po' qua, dai. E niente, adesso vado a fare una bella doccia, se ci siete a dopo, dai, ciao. Andare, ciao Lu, non fregarti molto. Ciao Luca, occhio al cornicione. No, la pedivella per una vabbè, cazzo, che va a fianco di coso, va di gambaloni mosci. Togliti il cemento mi da dietro il cornicione. Sì, cazzo, un motto più che ci ho avuto della tappa per la panina a terra, che era troppo secco. Fiago di mucino? Ha detto fiago di gambaloni si avariati, cinesi lì, a me per presente, uguale. Quella è un'ammoniaca, mi. Vabbè, com'è, lo profetto. Ma è possibile che ti ascolto diverso, ma hai cambiato qualcosa? Mi ascolti diverso? In che senso? Boh, è l'audio, la radio. Ma c'è ma di qualche cosa? Questa è un'altra radio. Come, non va bene? Allora vedi che il mio orecchio non sbaglia. No, avvertivo che c'era qualcosa di diverso, quindi tu me l'hai confermato anche adesso, dai. Sì, però dimmi cosa c'è che non quadra. No, è un'altra timbrica. L'altra è più da combattimento, questa è un attimino più classica. Aspetta, ma devo fare così. Così, come ha aumentato qualcosa? No, non ho avvertito differenze, Massi. Neanche così? Adesso non so cosa hai tirato su, se guadagno il microfono, però adesso è un po' più un bordello, è un attimino più impastata la voce, dai, preferivo prima. Infatti io la uso così, guarda. Chi è avanti, buonasera. Chi è? Non ho capito solo. Giuseppe da? Ah, Acqua Reale, da Ottava. E come mai arrivi così basso da Ottava? Troppo basso mi arrivi, io sono molto vicino in quella tua zona e mi arrivi troppo basso. Aspetta che cambio apparato un attimo. Io non lo copio proprio, Questa com'è? Chi c'ha la radiomacchina ragione, Massi? Questa è una cragubba proprio. Ma guarda che anche quella è uno scherzo, forse magari il microfono di quella lì. Aspetta, voglio sentire questo di Ottava, avanti. Sì, ti copio, un po' bassino, però ti copio. Ma Ottava 131? Ho visto che c'è un'antenna lì. Lì c'è anche il nostro caro amico Gigino. Non lo so, Lugrofè lo copia Giuseppe? Negativo. C'ho il QRM a 5 che va e viene, boh. C'è una roba elettrica qua vicino. Ogni tanto sparisce, però ogni tanto riappare. No, proprio non lo sento. Ci sono. Ehi, ok, B2. Giuseppe, allora, tu da lì... Allora, noi siamo più o meno, non ti dico la zona mia, però siamo più o meno in linea d'aria. Io vedo la tua antenna, siamo un chilometro. Mi dovete arrivare almeno 9:20 da lì, invece sei 7. Sei un po' bassino. Ok, dai. Avanti, B2, buonasera e ben entrato e ben sentito. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Chi è questo Giuseppe? Avanti Giuseppe, buonasera, se ti ascolto. Lo ascolto un po' bassino io, Eugenio. Siamo proprio, diciamo, proprio vicini, là. Quindi, non so, forse gli ha fatto qualche problema. Ma è nuovo? Boh, prova a aprirlo tutto lo squelci, magari c'è lo squelci chiuso. Beh, allora devi controllare l'impianto, boh, forse c'è qualcosa. Avanti, Lugoffè, di sorretto sempre. Oh yeah, no, l'amico di Ottafano, no, proprio non lo copio. Si è alzato nuovamente il QRM a 5, sicuramente sono gli Yankee qua vicino che splattano, boh, ma dimmi tu. Va bene, sento più Eugenio per colpa dello zio Sam, vediamo se mi sente Eugenio. Eugenio? Già, io ti ascolto perfettamente, senza nessun problema. Ah, Giuseppe è molto da Ottafa, e allora in linea d'aria siamo vicini, e non lo sento, strano. Oggi c'ha l'antenna a 10 metri da Gigino, capisci a me dov'è? Ah, quell'antenna che avevo quando passo da Ottafa, quella nuova che hanno piazzato, ho capito. E poi l'antenna, la 5 ottavi, la Energy 5 ottavi, io la giù compreso. È strano che non arrivi, c'è qualche problema per forza. E anche secondo me qualche problemino ce l'ha, anche perché la piazzata è troppo bassa. Vorrebbe tirarla un po' su dal tetto, quell'antenna non sta lavorando bene. E arriva a 7 qua dovrebbe arrivare almeno 9,20, minimo 9,20. Ma non è problema di apparato secondo me. Comunque. Va bene che bene. Quindi Lugoffè, cosa mi dici? Questo è meglio dell'altro. A voglia, alla grande, proprio non c'è storia. L'altro, allora, probabilmente il microfono. Questa è bella presente, squillante, insomma, bella prepotente. L'altra la sento appena in scatolata. Cioè, provasi che sia il microfono. Comunque il segnale è forte, però la radio è un po' più chiusa rispetto a questa. Questa è veramente un bijou. Dai, diciamo che questa la uso col Mickey Gain quasi al massimo. Quella lì ce l'ho a metà, capito? E poi con quella lì c'è un altro tipo di antenna, capito? Lugoffè. Ho capito, ma sempre microfoni di tavola o palmari? Di brida, di tavola. Questi sono tutti palmari. Non posso mettere un microfono da tavolo sulla radio così. Ah, ho capito. Va bene, dai. Ero convinto che avessi il microfono di tavola pure tu, dai. Ma so, che ne so? Adesso sono 6 mesi e ancora non è entrato nessuno. Aio! I scopedini, come ti dice il genio? I scopedini! No, che avevo la pitticola. Sai, quando c'avevo io la 5 ottavi, arrivavo a Sassai alla grande, ma di brutto, brutto, brutto. Quindi c'è qualche problema all'antenna o boh. Ah, ma che scendi solo con un filo. Avanti Giuseppe, vediamo un po' se lo ascoltiamo meglio. Dai, che se ne manda laterale. Allora, va bene, dai. Oggi quanto ti arrivo io lì da te? Tu la massa di Nivaia mi stai suonando lo Smith, sei a fondo scala. Perché? Abbassa. Ma cosa abbassa? Non è più basso di così. Un watt e mezzo, poi il resto lo fa la radio, capito? E un watt e mezzo, tutti questi di tabù esci con 38 watt di uscia. Siccome tu non mi credi, io ti mando anche il video, aspetta. Genio 469, bulldozer 920. È buono. Attento Giuseppe, se mi ascolti, cambio. Allora, ecco qui. Guarda bene il rosmetro, un watt e mezzo, neanche due, ok? Questo è l'apparato, aspetta che cambi il PP, aspetta un attimo. Allora, questo... quasi 2 watt, lo vedi? Non dico cazzate io. No, è vero, il segnale è 8, poi come moduli sale a fondo scala. Probabilmente sia vero, eh. Ciao Claudio, buonasera, ben entrata, io. Ma io che abbiamo sentito il sacco di PTT, io. Ed esempio stravagante, un preso. Guarda che che ti ho mandato il tutto. Guarda, oggi non dico cazzate, io. Non mi è arrivato ancora niente. Un attimo, sta caricando, cazzo. Ma io, spara di vola basso. Ma non mi sta parlando sopra, come si permette? Ehi, è entrato, va, Cusen, fende il gatto l'orecchio peloso. È così. Vabbè, è che non lo conosco, sennò quando la ciappo. Guarda che ti è arrivato il video, guarda. Avanti Giuseppe, vediamo un po'. No, aspetta, io già ti ascolto, però adesso sei ancora più basso. Ok, prima eri 7, adesso sei sceso a 6. Cioè, sì, qualcosina sull'antenna ce l'hai. Ma è stazionario, è come si è messo, giusto per. Vabbè, regolare non c'è più niente, però è per dire. Anche con un watt tu mi dovresti arrivare molto molto più forte. E poi oggi la massa di Livaria, mai da due. La massa di Livaria, già l'ho visto. Comunque c'ha problemi, è impossibile che con quell'antenna pure ottava è anche più alto di Porto Torres, quindi mi dovrebbe arrivare alla grande. Quando ce l'avevo io quell'antenna lì, arrivavo a sostare alla grande. C'è qualche problema. Però scusa se io mi intrometto un pochino, però quell'antenna è troppo bassa, la devi sollevare. Ricordati che no, quell'antenna non lavora bene a quell'altezza che l'hai messa. Buonasera a tutti. Oi, ciao Sparvier, buonasera e ben entrato. Mira Claudio, mira Claudio. Ma gente, Giovanzura, mira per aggiungere io che c'ho un microfono. Secondo me era Daniele che stava provando, io stavo accendendo la stufa. Ma stai zitto. Vabbè, facete ragione tu. Mia bussata. Poi, e che credo voi, qua a casa di Lattes, boh. Vabbè, coerenti per me, ciao a tutti. Che finita, io. Giratemi le balle. Ah, io ero fare lo stupido. Che cazzo non credi di mai che c'è il vilizio? Sta zitto che non ero io. L'ho sentito un stacco e PTT, ma non ero io. Oh, vedete, parolacce di vento rosso, io non sono abituato a sentirle. Questo PTT aveva lo stesso segnale tuo, vabbè. Comunque, là. Ciao Gabriele, buon entrato e ben sentito. C'è anche Giuseppe da Ottava, lo senti? Ma manco ballante in camera, cioè non giungo più, c'è l'antenna attaccata a Gigino. Ho sentito a Gigi stasera che stava parlando con Eugenio e mi arrivava quasi 9, 8 tra l'8 e il 9, ok, con pochi fatti. E non arrivi manco l'anno che era la driga. Gliel'ho detto, il problema sai che cos'è, Ocla? Già l'avrei vista quell'antenna, però è troppo bassa dal tetto, sono anche il tuo tetto. I radiali ce l'hanno un metro dal tetto, troppo bassa. Giuseppe, lo devi sollevare un pochino, sennò quell'antenna non sta dando il 100%. Non c'entra niente, Massi, qua dovrebbe arrivare. Qua dovrebbe arrivare alla grande. Capito, ti ripeto, l'ottava è più alta di Porto Torres. E io quando avevo quell'antenna lì, oltretutto ci avevo sul terrazzo, quando avevo la 50 V, era quella, ci avevo sul terrazzo ed era bassa lo stesso, e arrivava la stasera alla grande. Ma Cimì, quando l'ha montata quell'antenna, qua arrivava il C7 quel ragazzo Giuseppe. E grande successo che c'è un gallino di rovente, io non ne tengo più, questa antenna ha pigliato un colpo di volte. Sì, però Claudia, e tu lo sai benissimo, che l'antenna piazzata così bassa non irradia bene, può essere anche quello, può essere, ma non è che c'è Eugenia, se vi lascia, no? Quando è 2 metri dal tetto per i radiali va anche bene, senza un vero dubbio quella è bassa, però deve arrivare lo stesso come ha detto Eugenio, cazzo non mi tengo manca misericordia. Vediamo un po', vieni avanti Giuseppe, lo senti a Claudio? Claudio, lui ti sente? Ma io non lo sento a lui, quanto mi sente? Io minimo lì devo arrivare 7, 8, 9, più o meno il segnale che arrivo a te, non è che siete molto distanti, e poi aperto, ottava qua è aperto, più lunga e più ricevo bene, cazzo Eugenio sta arrivando quasi 9 e va l'antenna a 2 metri dalla gabbituia. Non so che dirti, lui ti sente? Quanto lo senti tu a Claudio? Che segnale gli dai a Claudio, Giuseppe? No. Santiago 2, radio 3-4 di Claudio, impossibile. Allora, noi ti ripeto, con Claudio più o meno abbiamo la stessa distanza, attenzione. Claudio qua è a 9 di segnale e 9-10 di picco, ok? Non, Super 5, ma perfettissima. Non può essere radio 3-4 e segnale 2, no, assolutamente. Tu hai qualche problema. Ma non ce l'ha un altro apparato a provare? Un altro baracchino, Giuseppe, se mi ascolti, non ce l'hai? Quell'antenna ha preso colpi, OJ, ha fatto la vita della Game Master Doia, con chi sovento, quell'antenna, io l'ho vista il giorno che sono sceso da te, sicuriari deuri, hai capito? Sicuriari deuri, ha preso vento sotto, c'è una bobinetta attaccata alla spirale in quell'antenna, sicuramente o è piena leva o sei fasciata, non c'è ricezione e trasmissione quell'antenna. Assolutamente, sì, registrato il break. Assolutamente, tu pensa Claudio che tu mentre lui parlava gli passi sopra, capito? E lui qua mi dovrebbe arrivare 9:20, minimo 9:20. Mi arriva a 6. È impossibile che ci sia questo problema. Avanti il break. Buonasera a tutti, dai, io sto facendo ascolto. E a Giuseppe lo sento livello QRM. Se c'era appena appena di QRM me lo copio. Ciao già, buonasera, ben entrato. Figurati, io sono attaccato a lui. E mi arriva Santiago, sì, fatti il conto. Avanti, lo profe. Eia, ciao Claudio, buonasera, ciao Gianni. Sì, io c'ho QRM elettrico qua a 5, per cui proprio in occhi proprio non arrivi nemmeno. Sì, sicuramente c'è qualcosa in corto. Non è possibile. O c'è la tenda testa in giù, perché Eugenio qua arriva a 9. Va bene, dai, avanti qua. Ciao Gianni, buonasera, ma senza ombra di dubbio, lo stesso problema, guarda, io non lo sento Massimiliano, dille di svitare il PL e puntare solo la punta del PL, vedi che aumenta il QRM e sente più alto, c'è l'antenna in corto, non ci ammazza. Hai capito? No, già lui ti sente, Santiago 2-3 addirittura. Hai capito Giuseppe cosa ti ha detto? Provare a svitare il PL e lasciare solo il puntale. Senta Favidà però, se no brucia la radio, invece aumenta i segnali. È meglio bruciare la radio, ma non manco fare da più. Infatti, come manco. La banca viva. Lo sai, Rubeffè, che io oltre a essere bello sono anche forte di segnale. E beh, poca onda. Cattivi che siete qua. Siete cattivi, eh. Andiamo a andare, cacca. Perché è cattivo? Le stiamo dicendo la pura verità. Ciao, buonasera Tore. Ma siete cattivi, capo, lo volete così male, poveretto. Là non rifunziona l'antenna e voi usate tagliando a pezzi. Come sono tagliando a pezzi? È la verità, le stiamo dicendo la verità, anzi, le stiamo dando consigli. Attenzione di Boccio Borra. Buonasera, Ani. Là dove arrivate più sono lì? Ciao Tore. Io che siamo usciti in gommone, abbiamo su la barca. Che c'è il rimorchiatore per tirarti. Andiamo bene. Con la cavacca non entra neanche dove la sirena. Comunque Tore, le stiamo dicendo la verità, perché magari ha problemi sull'antenna e rischia di fare danno, nel senso che rischia anche di bruciarsi qualche radio. E allora, in momento cosa che devo fare? Chiudere e controllarsi tutto e buttarne l'antenna giù, se è piena d'acqua quella. Giuseppe, buttaci tutto, là, stacca tutto e spegni la radio. Avanti, doppio! Ah, facciamo! Mi hai sentito anche a te, dai. Sì, le conviene controllare bene tutto, perché sennò magari fa danno. E magari, ma io non ho mai sentito chi è questo Giuseppe, che rovina tipo c'ha. Oh, Aquila Nera, mi pare si chiama. È a 10 metri da Gigino Vulcano. Ah, ecco. No, io non l'avevo mai vista l'antenna. Quella di Gigi si passava, ma quella sua non l'ho mai vista. Vabbè, che antenna c'ha? Una Energy. Quella del genere, dai. Ho capito. E magari si è staccato qualcosa. Anche il piede può essere col vento che si è staccato. A me una volta era successo, dopo tanti anni mi si era staccato il filo del PL e non andava. La bobina è la bobina. Ehi, Polassi Antonio, ciao, buonasera. Polassi ce l'ha anche troppo bassa, cioè io sono un chilometro di linea da lui e Cerca antenna mi dovrebbe arrivare addirittura. Fate un conto. Gara gara. Avanti, Rubio Forte di Bosodoro. Contente, sta soffiando il vento. Oh, mamma, sta aumentando. Stanotte ha tirato di nuovo di brutto e... E allora c'è che si deve fare la plastica che deve lasciarla fuori. Sale il vento. E cosa faccio? Lascio la plastica lì a andare in mezzo alla strada. La macchina ti ho consiglio, la macchina come prende il furgone e gliela butti dalla finestra. Allora io, per carità, hanno fatto una cosa, guarda, senza pensare che i cinghiali, cosa, fanno casino e basta. Se trovano un busto e spaccano tutto, fanno solo casino. Oh, scusate il secondo, ma io mi devo allontanare dalla radio perché devo preparare una cosa in cucina, se no poi si fa tardi, dai. Devo pulire delle verdure. Vi ascolto volentieri, ma non riprendo, ci sentiamo dopo. Comunque ragione Antonello, c'è Antonello. Lì andate in corto la bobina, Massimiliano. Quell'antenna c'è una bobina ed è abbastanza delicata, quindi sicuramente il gruvento che ha pigliato si è rotta, c'è qualcosa che non fa, sta uscendo solo col cavo, guarda, retta a me, perché non lo sento per niente. Proprio come ha detto Gianni, in mezzo al QRM non capisco nulla. Ci sentiamo dopo ragazzi. Ciao Torre Squadra. Ciao Claudio, avanti Torre. Ciao Claudio, fermo le cose, alle buone. La spara ci devo pulire, sennò mia moglie mi rifate di grugambo addosso e non ne mangio. Ci sentiamo dopo. Ehi, acca, qui si vede che sta arrivando, Vabbè, adesso che ora vengo a mangiare. Allora che ti piace, la Iana è sempre a becca, baramichi. Ma si possono sempre prendere gli aspari. Sì, è pieno, ma gli hanno regalato 4 matti, li ha fatti il mio vicino, ma belli, non solo che sia andato, ma ecco, la parte lì di Laero, quelle parti lì, ma ce n'è, vabbè, dai, vi lascio un attimo, già rientro subito, vai Massimi, fai girare tu la ruota. Ehi, a positivo, là, vabbè, là, Giuseppe si controllerà tutto e ci butterà tutto. Va bene così, anche io mi allontano, mi devo allontanare perché mi stanno chiamando da giù e quindi devo allontanarmi dalla radio. Vi auguro una buona serata, una buona cena a tutti e magari se fa ci sentiamo dopo. Avanti Porto Torres. No, volevo dire Gianni, non si possono aprire gli aspari, sono protetti dall'UNESCO. No, a parte gli scherzi, io ho visto su internet uno che l'hanno fermato. Ciao Massimiliano, buona serata, dai. E anche a Claudio. E cosa stavo dicendo? Ho visto su internet, l'hanno fermato, uno gli hanno fatto il verbale, la forestale, però non è qua in Sardegna, non so se in Sardegna sia diverso. No, si possono aprire gli asparagi. No, non c'è nessun divieto, penso e credo. Ehi, anche Marigucù l'aveva in buccio, no? Prima si potevano prendere un macone, dopo dalle parti di Usi con la zona lì, se eri di fuori non le potevi prendere. Oh, no, non lo so, non insisto perché non lo so. Va bene. Avanti, Tore, nulla ne sai tu, che tu sei di quelli che vanno a sparagi. Oh, non mi piace andare a sparagi. So che a Monte Oro una cosa gli facevano a Monte Oro, lì c'era, come che si chiama, dal deposito di quelli della Mondezza, lì dove lavoravo io, lì c'erano tante, li facevano, se li faceva anche nelle montagne se le facevano. Ma si sono, qua si sono sempre potuti prendere, però l'altro giorno stavo guardando internet e questo ha scritto che ha messo una fotografia, c'era la forestale e praticamente l'amico gli ha fatto una fotografia mentre gli stavano mettendo la multa, ha scritto che l'hanno beccato con gli asparagi e gli hanno fatto la multa, la forestale, però non è in tutte le regioni. Infatti non è in tutte le regioni, ma noi si possono fare tranquillamente, ma ve ne è divieto. Io so che c'è un amico che lavora alla foresta e mi ha detto no, si possono fare tranquillamente, li potete fare. Così mi ha detto, ma non ce n'è divieto. Magari non è in tutte le regioni che c'è divieto. E appunto, magari è così. Ehi, dipende da fare, cioè se pochi i cinghiali, basta sapere andare con un bel furgone, caricare i cinghiali la notte e poi portarli alla girare, a metterli di là. Sì, questi bassi non impari a pigliare i cinghiali, lui ha, c'è lavoro per il cinghiale, non è così, no? Devi avere i cani, devi avere tutta quanta la cosa di caccia, non è così, no? Vanno tutti insieme, c'è quello che è il battitore che fa casino, i cani che fanno scappare, lui... Tutta una cosa, non è che è il biglietto, poi in città non si possono sparare. E ci sono i cazzoletti del comune, quelli che ha messo il sindaco, basta che è talento, lo pidi col tappo e ce lo spedisci, il cazzoletto e tutto. Con la scimitarra, vabbè. vabbè, chi è rimasto il trattore? Gianni Profeta, ci sei? Ehi, mi sono allontanato un attimo a causa di forza maggiore. Anche io no, mi sono allontanato un attimo e non so chi sia rimasto qua nella ruota. Quindi vediamo se Genio è ancora all'ascolto. Genio, Papatango? Certo che sono qua, per forza. Ma vento al contrario, venti lì. Forte sta tirando il vento lì. Sì, sta entrando, sta rinforzando parecchio. La notte che niente non vero già. Per carità. Adesso questa è la plastica devi girare un po' io. Che cosa dirà bene? Se no passi dove ci sono cassoni e la butti nel cassone. E io si dimmi la numero che ce l'ha la busta e ti mettono la busta. Ah, io non fanno nulla, non fanno. Non fanno nulla, non ti preoccupare. Non so proprio dove buttarla. E col vento non fa lasciarle fuori, hanno trovato dei sistemi allucinanti. Ma una cosa, loro... La leghi e vedi che domani mattina ce la prendono. Ecco, vabbè, adesso vediamo. La bulldozer c'è ancora? No, bulldozer è andato via. L'hanno chiamato da giù. Santo è anche Claudio è andato via. Sì, anche Claudio è andato a pulire le verdure. Chi ci viene a pescare in barca stasera? Ehi, come sta andando? Da terra, sì, da terra posso farlo, che tra poco c'era una cosa, mi ha fatto una bufonatura e qua, mi sono fatto addosso. Cos'è il mare che mette? E beh, quando è mosso bisogna andare dentro al mare, non è così, no? Bulldozer una volta mi ha detto, dove stai andando già a pescare? E dove vai? Io ho detto, il posto, e andava magari qui, verso le due, vengo a farti compagnia. Cazzo! Alle due mesi, così, ho visto questa luce, ma una luce fortissima, che veniva verso di me dal cielo. Cazzo, mi sono compagliato un raio.